24. La storia. Se di quei 10 milioni e 300 mila ebrei ne avessimo uccisi 10 milioni e 300 mila, allora mi riterrei soddisfatto e direi: bene, abbiamo sterminato un nemico. Settembre 1946 a Norimberga si apre il processo contro i gerarchi nazisti caduti nelle mani degli alleati dopo il crollo del Terzo Reich. Molti di quei criminali finiranno sul patibolo, mentre molti riusciranno a fuggire. Sul banco degli imputati in quel processo manca il protagonista numero uno di quella tragedia, l'uomo che l'ha organizzata, pensata e scientificamente realizzata. Quell'uomo è Adolf Eichmann. Oggi a Mix 24 vogliamo raccontare la sua storia, la vita di uno dei protagonisti del Terzo Reich, dell'ideatore del piano di sterminio ebraico Adolf Eichmann. Marzo 1938, Hitler, il nuovo capo dell'Austria, la patria di Eichmann, arriva a Vienna. Per 200.000 ebrei austriaci la visita di Hitler è il momento più buio della storia. Nel quartiere ebraico di Vienna regna la paura. L'Austria, l'antica marca orientale del popolo tedesco, sarà da oggi il nuovo baluardo della nazione tedesca e del Reich. Nell'entourage del gerarca nazista Himmler c'è il sottotenente Adolf Eichmann. Otto Adolf Eichmann nasce a Solingen il 19 marzo 1906. All'età di 8 anni perde la madre e la famiglia si trasferisce a Linz, in Austria, dove il padre si risposa. La matrigna di Eichmann è una donna inflessibile e autoritaria. Il padre lavora per la compagnia dei trasporti tranviari e dell'elettricità. Adolf Eichmann è un ragazzo introverso, solitario e senza amici. Frequenta la stessa scuola che aveva frequentato Hitler, anche lui con scarsi risultati. A scuola i compagni lo prendono in giro per il suo aspetto fisico, che nel colore scuro della pelle e dei capelli richiama fortemente i tratti semitici. Der kleine Jude, il piccolo ebreo, così lo chiamano i compagni di scuola. Eichmann sposa Veronika Liebel, una cattolica proveniente dalla Cecoslovacchia. I due vanno a vivere in una villa nei dintorni di Berlino. Nasce Klaus, il primo dei loro 4 figli. 23 gennaio 1935. Non sussistono obiezioni al matrimonio di Adolf Eichmann con Veronika Liebel. L'esame delle origini razziali della signorina Liebel ha dimostrato la sua assoluta idoneità a diventare moglie di un ufficiale delle SS. Eichmann entra nelle SS ed è spinto da un grande desiderio di riconoscimento e di carriera. Per questo studia il nemico, gli ebrei, con grande attenzione. Prova addirittura ad imparare l'ebraico da un rabbino, ma la richiesta viene respinta. L'insegnante deve essere ariano. Gli viene comunque concesso un viaggio pagato in Palestina, rifugio delle vittime del terrore nazista. Travestito da giornalista, visita un kibbutz ed esamina quali possibilità ci sono di deportare gli ebrei. Ma Eichmann viene scoperto, fotografato dai servizi segreti ed espulso. Così finisce la sua missione. I superiori premiano comunque l'impegno di Eichmann nei confronti del nazionalsocialismo col massimo dei voti. Impegno incondizionato, conoscenza ottima della materia ed eccellente capacità di negoziare, parlare e organizzare sono i segni particolari che gli consentiranno di fare carriera nel Reich. Ma questo giudizio non accresce l'autostima di Eichmann. Wilhelm Ottl, suo collaboratore, e Willy Stern, ebreo viennese, lo descrivono come un uomo alla ricerca di continue conferme. Un aspetto che caratterizzava Eichmann era il suo complesso di inferiorità. Da noi, nei servizi di sicurezza, tutte le posizioni di comando erano occupate da laureati, con una sola eccezione: lui. Per lui era una vera ossessione. Doveva dimostrare a tutti i costi di essere all'altezza. Voleva mettersi alla prova. Questa ossessione non lo abbandonò mai, perlomeno fino a quando visse nel Terzo Reich. Era relativamente piccolo. Indossava un'uniforme fatta su misura. Batteva il frustino da cavallerizzo contro lo stivale. Percorreva i corridoi con passo rapido, per paura che gli ebrei avessero contaminato l'aria. Non voleva nemmeno respirare. Vienna 1938. Con l'Anschluss dell'Austria alla Germania, per Adolf Eichmann arriva la grande occasione per dimostrare il suo valore. Gli viene affidato il compito di cacciare tutti gli ebrei da Vienna. Nella comunità israelita Eichmann è il più attivo a perquisire, arrestare, umiliare. E per migliaia di ebrei il messaggio è chiaro: bisogna fuggire. Davanti all'ambasciata americana a Vienna si formano file di ebrei disperati, ma per Eichmann l'esodo procede troppo lentamente. Decide allora di accelerarlo mediante l'istituzione di un ufficio centrale per l'immigrazione degli ebrei. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. Con Marina Milone stiamo raccontando la storia di Adolf Eichmann. A Vienna nel 38 l'organizzatore dello sterminio degli ebrei ha un compito preciso: pianificare la cacciata degli ebrei dalla città. Ed Eichmann organizza 45.000 espatri in 8 mesi. Ascoltiamo la registrazione di una conversazione di Eichmann con un camerata dell'SS. Quando dico che per diverse settimane siamo riusciti a far espatriare ogni giorno 1.000 ebrei, significa che se ne presentavano almeno 2.000 al giorno. Alcuni venivano a fare domanda per il passaporto, altri venivano a firmare e a ritirarlo. C'era un continuo andirivieni. Negli eleganti ambienti dei suoi uffici, l'uomo che gestiva l'espulsione degli ebrei li riceve anche. Teddy Kollek, del Comitato per la Salvezza degli Ebrei, viene ricevuto da Eichmann. Stava seduto in poltrona e indossava la sua uniforme nera. Naturalmente io stavo in piedi, non mi aveva invitato a sedermi. Gli dissi cosa avevo da offrirgli e cosa ero in grado di fare. Era molto interessato. Voleva sapere se quello che dicevo era vero. Poi guardò i documenti che avevo con me. Il colloquio durò 20 minuti al massimo. Minuti per 3.000 vite. È il numero di bambini ebrei che Kollek vuole portare in Inghilterra. Eichmann acconsente. Rimasi sorpreso, pensavo sarebbe stato più complicato. Solo dopo capii perché era andato tutto liscio. Si era liberato di 3.000 ebrei e per lui questo era un successo. Eichmann intanto si gode i simboli del suo potere. Tutti devono vedere fin dove è arrivato. Sfoggia l'autista personale e la limousine. Era un uomo presuntuoso, pieno di sé. Con il suo aspetto azzimato, voleva fare colpo sulla gente. Eichmann è un alunno modello e Reinhard Heydrich, il suo superiore, ne è soddisfatto. A una conferenza dichiara che il modello di Vienna proposto da Eichmann deve essere applicato a tutta la Germania. È di uomini come questi che hanno bisogno le SS, fedeli ed efficienti. Dunque Eichmann viene mandato a Berlino e nominato responsabile degli ebrei per il Reich. L'ufficio centrale di sicurezza del Terzo Reich installa il quartier generale per l'espulsione e poi per lo sterminio degli ebrei. Il primo settembre del 39 la Germania invade la Polonia, ha inizio la Seconda Guerra Mondiale e per Adolf Eichmann si profilano nuovi e più importanti incarichi. Ovunque in Polonia nascono ghetti, una misura d'emergenza perché nessun paese vuole più accogliere gli ebrei. Dovremmo considerare l'ipotesi di far fuori gli ebrei con un metodo rapido ed efficace. Come Con l'invasione sovietica il metodo viene applicato immediatamente e dietro il fronte iniziano fucilazioni di massa. Eichmann diventa allora un testimone. Una volta assistetti ad una fucilazione di ebrei. Arrivai all'ultimo minuto, proprio all'ultimo minuto, ma riuscii comunque a vedere. C'era una donna ebrea che teneva sollevato un bambino. Per me fu una scena terribile. Dissi al caposquadra Müller: non possiamo risolvere in questo modo la questione ebraica. Stiamo addestrando i nostri uomini al sadismo. Eichmann organizza treni speciali per portare le vittime direttamente agli squadroni della morte. L'esperto di ebrei pianifica il genocidio. Era fine estate quando Heydrich mi convocò. Mi disse: il Führer ha ordinato lo sterminio degli ebrei. Sapevo cosa dovevo fare. Non dissi niente, perché non c'era niente da dire. Ma agli occhi di Eichmann la fucilazione è troppo brutale e troppo poco efficace. Cerca allora nuovi metodi di sterminio. Nell'estate del 41 visita Auschwitz. Qui incontra il comandante del campo di concentramento, Hess. Che cosa bisogna fare con la massa dei deportati? Eichmann si informa su un nuovo gas, un mezzo letale per agevolare il compito degli esecutori. Poche settimane dopo, nel settembre del 41, i primi prigionieri di Auschwitz vengono uccisi nelle camere a gas. Hess descrive Eichmann come un uomo pieno di energia, ossessionato dall'ordine di procedere alla soluzione finale, sempre in cerca di innovazioni. Il genocidio ormai procede a ritmo spedito. 20 gennaio del 42, sulle rive della Wannsee, in una casa in mezzo al verde, in una tranquilla zona periferica di Berlino, si sta discutendo di come risolvere il problema ebraico. I massimi vertici della gerarchia nazista si sono dati appuntamento per decidere il destino di milioni di persone. Nella conferenza di Wannsee viene messo a punto un progetto che avrebbe trovato la sua realizzazione nei campi di sterminio dai nomi allora sconosciuti, ma che sarebbero diventati drammaticamente famosi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale: Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, Sobibor, Belzec, Treblinka. La riunione è presieduta da Heydrich. Il progetto all'ordine del giorno è presentato dal generale dell'SS Adolf Eichmann. Come esperto della questione ebraica e come responsabile dell'ufficio 4B4 della Gestapo e dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, è mio compito occuparmi del sistema di trasporto degli ebrei. Il nostro progetto prevede che l'operazione si svolga nel seguente modo: una volta scovato, l'ebreo verrà registrato e arrestato, dovrà cedere al Reich la proprietà di tutti i suoi beni. Gli verrà concesso di portare con sé solo una valigia e 50 marchi e quindi verrà avviato ad uno scalo ferroviario isolato per essere caricato su un carro merci e portato alla sua destinazione finale. Il piano di Eichmann getta le basi di una complessa operazione di coordinamento strategico. Crea nuovi posti di lavoro per i tedeschi, favorisce l'espansione dell'industria pesante, grazie non solo alla crescente domanda di armi, ma anche all'ampliamento necessario della rete ferroviaria del Reich. I carri merci trasportano il loro carico umano fino ai campi di internamento e tornano indietro, pieni di merci destinate a vari fronti europei. Una strategia commerciale studiata a tavolino e ispirata a un progetto di sterminio di massa. Eichmann calcola meticolosamente quanti ebrei possono essere uccisi. 11 milioni. Nel protocollo, però, nasconde ciò che è stato detto apertamente nella villa sul Wannsee: uccidere, eliminare, sterminare. Eichmann traduce: le vittime verranno trattate in conformità a quanto stabilito. Antonio Cassese, ex presidente del Tribunale Internazionale dell'AIA, così commenta l'importanza di quel protocollo. Il verbale della conferenza di Wannsee era un documento segretissimo e infatti ne vennero redatte soltanto 30 copie per i 15 partecipanti e vennero tutte distrutte, tranne una, nel 1945 dai loro destinatari. Quell'unica che si è salvata era il Ministero degli Affari Esteri, perché il destinatario nel 1943 era stato arrestato dalla Gestapo, portato in campo di concentramento ed era morto, quindi probabilmente non ha avuto il tempo di distruggere quella copia. Gli alleati nel 1947 trovarono questa copia e ora possiamo leggerla. Questo verbale è stato redatto materialmente da Eichmann ed è molto interessante, tra l'altro anche perché nel verbale non si dice mai che lo scopo principale della soluzione finale è quello dello sterminio degli ebrei attraverso le camere a gas, i forni crematori, eccetera. Però questo verbale dimostra, proprio per il modo in cui è stato redatto, che i leader tedeschi erano consapevoli che quello che stavano pianificando, lo sterminio degli ebrei, era illegale anche in Germania. Quindi non è vero quello che dice Eichmann, che un ordine di Hitler era la legge suprema. Non è vero, altrimenti Eichmann non avrebbe esitato a mettere per iscritto quello che afferma di aver sentito dire da Heydrich, cioè come uccideremo gli ebrei attraverso le camere a gas. Gli ebrei d'Europa devono essere evacuati verso est sui treni di Eichmann, che coordina le deportazioni. Nell'Europa occupata si procede allora a raggruppare gli ebrei. Le operazioni vengono coordinate dagli uomini di Eichmann. Sta a loro controllare che tutto proceda senza intoppi. Sui marciapiedi delle stazioni gli ebrei sono registrati come persone, ma caricati come bestiame. Gli orari dei treni della morte li decide l'esperto di ebrei a Berlino. Il genocidio ha un costo e a pagarlo sono le SS, 4 centesimi per passeggero e per chilometro, biglietti di sola andata. Intanto a 70 km da Praga, nel ghetto di Theresienstadt, Eichmann gira un filmato realizzato dalla propaganda per nascondere l'orrore. Il regista, lo stesso Eichmann, vuole dare l'illusione di un campo di concentramento umano, musica e ballo invece di omicidi e caos. Il controllore dei treni della morte ispeziona il suo campo di concentramento una dozzina di volte. Quando appare, i detenuti temono il peggio. Quando arrivava Eichmann, avevamo tutti paura. Le sue visite spesso significavano deportazioni ad est. Eichmann decideva della vita e della morte. Sapevamo tutti che aveva un potere illimitato. Ma Theresienstadt è solo una tappa intermedia. Per molti Auschwitz è l'ultima fermata. Estate del 1942, il coordinatore vuole sapere quanti deportati può contenere il campo di sterminio. Ispeziona Birkenau e la visita non lo lascia indifferente. Mi ricordo ancora quando li vidi bruciare. Mi tremavano le gambe. Cercavo di pensare a qualcos'altro. Voglio dirle una cosa. Sa cosa feci quel giorno? Una cosa che faccio sempre quando sono veramente sconvolto e non riesco a scacciare quel pensiero dalla testa. Sa cosa dico per distrarmi? Le verrà da ridere, ma io dico: credo in Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, fu crocifisso ma è risorto e verrà a giudicare i vivi e i morti. Psicologicamente era fragile. Quelle scene cruente, la cremazione dei cadaveri, eccetera. Tutto questo lo lasciava totalmente sconvolto. Ma lui non voleva ammetterlo. Si portava... Io non c'ero, ma me l'hanno detto. Si portava dietro una borraccia con dentro Slivovitz, una grappa alle prugne. E ogni tanto ne beveva un sorso. Si capiva che non ne poteva più. Era quest'ultima la voce di Wilhelm Hotl, collaboratore di Eichmann, l'esecutore abituato a lavorare a tavolino e ora sul luogo del delitto. Ma cosa provava Eichmann? Gabriel Bach, PM al processo di Gerusalemme, la pensa così. Lui stesso disse di non riuscire a provare odio. Mi rimane difficile crederlo, perché penso che uno che non provi un odio profondo non potrebbe mai fare una cosa del genere. con quell'estremismo. Una volta venne a sapere che alcune migliaia di ebrei erano stati uccisi dalla milizia al confine tra Russia e Romania e che i corpi erano stati gettati nel fiume. Eichmann era furibondo. Gli venne un vero e proprio accesso d'ira, non per motivi umanitari, ma perché diceva che così avrebbe perso il quadro statistico e che quando fosse giunto il momento di uccidere gli ebrei rumeni, i dati non sarebbero stati attendibili e i conti non sarebbero tornati. È un fanatico degli orari. La puntualità dei treni della morte è per lui una questione d'onore. Con precisione maniacale organizza allora deportazioni. Nessuno deve sfuggire alle sue statistiche, nemmeno i bambini ebrei che chiama cellule germinali. Quindi ordina di deportare anche i bambini nei campi di sterminio, esseri umani che per Eichmann sono solo numeri. Non mi interessavano gli ebrei di Auschwitz e Mauthausen. La mia sfera di competenza era l'Ungheria. Dovevo occuparmi dell'Ungheria e degli ebrei ungheresi non ancora deportati. Non mi importava se fossero vivi o già morti. I deportati erano deportati, tutto il resto non mi interessava. Nel marzo del 44 l'Olocausto raggiunge anche l'Ungheria, dove vivono 700.000 ebrei. Il giorno del suo 38esimo compleanno Eichmann si mette all'opera come capo di un reparto speciale. Suo incarico è ora deportare tutti gli ebrei dall'Ungheria. L'espulsione inizia nella provincia, con il benestare delle autorità ungheresi intenzionata ad aiutare Eichmann nella sua caccia agli ebrei. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Adolf Eichmann, il pianificatore dell'Olocausto, in solo due mesi organizza la deportazione di 450.000 ebrei ungheresi. Nelle sinagoghe, intanto, le spie iniziano a diffondere la notizia delle bugie raccontate da Eichmann sui campi per famiglie in Germania, spacciati come destinazione della deportazione degli ebrei. Ma per la maggior parte di loro la meta del viaggio continua comunque a restare un mistero totale. Queste le voci dei due deportati. Ad un tratto cominciammo a ricevere cartoline inviate da parenti con un timbro della Foresta Nera. Non sapevamo esattamente da dove venissero. C'era solo il timbro con la scritta Foresta Nera. I parenti scrivevano: qui va tutto bene, non vi dovete preoccupare per noi, e la firma. Quando poi ci caricarono sui vagoni, pensammo che anche a noi ci avrebbero mandato lì, nella Foresta Nera, dove si stava così bene. Gli ebrei polacchi erano più informati. Sapevano cosa accadeva a Birkenau, ad Auschwitz, ma gli ebrei ungheresi non lo sapevano. Gli dicevano che li avrebbero portati in campi per famiglie. Non sapevano niente. Estate del 44, l'esito della guerra è ormai deciso da tempo. L'Armata Rossa avanza, ma i treni di Eichmann non si fermano. Questo è il commento di Gabriel Bach, PM al processo Eichmann. Quando i generali tedeschi sul fronte orientale chiedevano altri treni con i rinforzi, lui riusciva a far dar priorità ai suoi treni della morte, pur sapendo che così sabotava gli sforzi bellici della Germania. Diceva ai suoi amici: so che la guerra è persa, ma io vincerò la mia di guerra. Poi andò ad Auschwitz per portare le esecuzioni da 10.000 a 12.000 al giorno. La furia distruttrice di Eichmann non si ferma. Suo obiettivo è compiacere Hitler fino alla fine. Quando l'alleato ungherese del Führer, Miklos Horthy, interrompe le deportazioni, Eichmann non si vuole fermare. Queste le parole di alcuni testimoni. Era in preda all'agitazione. Come, tutto è finito. Ho una cugina di secondo grado che fu deportata ad Auschwitz insieme a sua madre. Perché Eichmann insistette affinché le deportazioni proseguissero nei dintorni di Budapest. Nonostante il reggente ungherese Miklos Deorti avesse ordinato di interrompere le deportazioni e presentato un documento in proposito, Eichmann ordinò di riunire furtivamente tutti gli ebrei delle periferie estreme di Budapest e li fece deportare. Ottobre del 44, un colpo di Stato in Ungheria rovescia Orti. I fascisti ungheresi, le croce frecciate, prendono il potere ed Eichmann ha di nuovo via libera. Inizia una vera e propria caccia agli ebrei per le strade di Budapest. Dopo il colpo di Stato iniziò una terribile ondata di persecuzioni. Se una croce frecciata vedeva un ebreo, creava il pretesto per strappargli di dosso qualsiasi cosa. Nei casi peggiori li gettavano nel Danubio. Lo facevano tanto per divertirsi. A Budapest decine di migliaia di ebrei cercano un riparo e per molti la salvezza è nelle case rifugio create da coraggiosi diplomatici come lo svedese Raoul Wallenberg e lo svizzero Karl Lutz. Grazie ai passaporti collettivi alle circa 100 case rifugio di Budapest, oltre 100.000 ebrei sopravvivono. Aumentano le resistenze. Eichmann è sotto pressione e teme per la propria vita. Avevo l'impressione che fosse in preda al terrore. Teneva l'elmetto e la pistola sul tavolo e aveva anche un tic. Stirava le labbra o roba del genere. Era chiaramente un segnale di grande nervosismo. Quando qualcuno lo fotografava, montava su tutte le furie. Strappava via il rullino dalla macchina fotografica. Oppure pagava per averla, per poi distruggerla. Sapeva che prima o poi gli avrebbero dato la caccia. La sua paura è giustificata. Alcune delle sue vittime tentano di difendersi, come il gruppo ebraico di resistenza Haganah. Volevamo assassinare Eichmann con un attentato suicida, sacrificando la nostra stessa vita. Morire con onore e uccidere Eichmann, questo era il nostro obiettivo. Ma l'attentato dinamitardo contro Eichmann viene revocato all'ultimo momento per paura di rappresaglie contro gli ebrei di Budapest. I bombardieri alleati distruggono le linee ferroviarie in Ungheria. Mancano i treni. Così Eichmann manda a piedi in Austria 50.000 ebrei di Budapest. Più i russi si avvicinavano, più le guardie si innervosivano. C'eravamo messi in cammino, ma eravamo ancora vicini a Budapest. Vedi con i miei occhi gente stanca o che non andava abbastanza veloce venire fucilata sul posto. Era una corsa contro la morte. Una volta un giovane sottotenente gli chiese: «Tenente colonnello, quanti?» E lui: «Più di 5». Tutti avevano capito che Eichmann intendeva dire più di 5 milioni. Cosa accadrà quando, dopo la guerra, il mondo chiederà notizia di quei 5 milioni di persone? Al che l'altro: 100 morti sono una catastrofe, 1 milione di morti è una statistica. 4 milioni uccisi nei campi di sterminio, 2 milioni uccisi dai reparti operativi e dalle epidemie nei campi di concentramento. In tutto fanno 6 milioni. Dicembre del 44, l'Armata Rossa a Budapest. Il giorno della vigilia di Natale, Eichmann fugge dalla città e si rifugia tra le montagne austriache. Qui vuole opporre resistenza fino alla fine, come un capo dei partigiani, ma il suo superiore, Kaltenbrunner, non vuole più riceverlo. A ricordarlo è Willem Ott, il collaboratore di Eichmann. Si lamentava con me per il fatto che Kaltenbrunner non lo avesse ricevuto e che avesse incaricato il suo aiutante di dargli un rotolo di sovrane e di sterline d'oro inglesi. E lui: me ne infischio, non voglio denaro, ce l'ho già. Voglio ordini. Voglio sapere cosa devo fare. E l'8 maggio del 45 il Terzo Reich è caduto sotto i colpi degli alleati. Gli ebrei sterminati sono 6 milioni, un terzo di tutti gli ebrei del mondo. Perduta la guerra, i nazisti cercano di nascondere le prove dei loro crimini. Eichmann distrugge le pratiche e le foto conservate in archivio e scompare. Senza ordine è un uomo disorientato, fugge ma viene catturato dai soldati americani e scompare nel mare di prigionieri di guerra, uno tra milioni. Inizia allora per Eichmann una fuga lunga 15 anni, di cui parleremo mercoledì prossimo, sempre alle 10 su Radio 24. Intanto, viabilità, e riprendiamo con un'intervista di Marina Milone con lo storico Gustavo Corni. Mix 24, la storia. Professore Gustavo Corni, ordinario di storia contemporanea all'Università di Trento, quando nasce esattamente la questione ebraica? La questione ebraica diventa un problema politico internazionale soprattutto dopo che Hitler va al potere nel gennaio del 1933. Aveva certo degli antecedenti, aveva delle radici più remote, pensiamo per esempio alla questione dell'affare dei Fus nella Francia di fine 800, pensiamo alle violenze antiebraiche nella Russia zarista del primissimo 900, ma con gli anni 30 una grande potenza come la Germania, che sta ritornando in primo piano e che si sta riarmando al centro del continente, pone anche a livello internazionale la questione della popolazione ebraica all'interno dei suoi confini, poco più di 500.000 persone, e questo problema diventa un problema di tipo internazionale. Quindi con la presa al potere di Hitler nel 1933. Sì, sì. Ma quanta complicità c'è già in quel momento da parte degli altri stati? Allora, il termine complicità è sicuramente un termine molto pesante, è un termine che è stato usato di quando in quando dalla storiografia, ad esempio quando ci si è soffermati sulla questione se bombardare o meno le linee ferroviarie che portavano a... Nel chi sapeva, no? Chi sapeva che cosa stava accadendo? Sapevano, certo. Negli anni 30, più che di complicità, io credo noi dobbiamo parlare di una passività da parte del consesso internazionale. Nel 1937-38 il governo americano propone una conferenza internazionale che si svolge a Evian, nella Francia meridionale, per cercare di, come dire, di dividersi le quote di questa popolazione ebraica tedesca che vuole in gran parte andare via e che è costretta ad andare via dal proprio paese. E in quella conferenza organizzata dal presidente Roosevelt si vede chiaramente che pochissimi paesi europei e anche extraeuropei sono disposti a prendersi quote di emigranti o di potenziali emigranti ebraici, e in qualche modo mutatis mutandis è qualcosa che assomiglia un po' alle questioni di cui si dibatte adesso in Europa, quando, come dire, nessuno vuole gli extracomunitari all'interno dell'Europa e questi arrivano sulle coste italiane, insomma il dibattito. Un po' allo stesso modo. Al processo a Gerusalemme Eichmann si difende spiegando che ha eseguito solo gli ordini. Ecco, ma quanto invece è esclusiva la responsabilità di Eichmann? La giustificazione data da Eichmann è una giustificazione largamente diffusa che viene ripetuta in centinaia, migliaia di casi da ufficiali o civili che sono sottoposti a processo dopo il 1945. È la giustificazione fondamentale. Siamo dei funzionari, eravamo dei funzionari, eravamo degli ufficiali, dovevamo rispondere a ordini superiori e in particolare all'ordine supremo, quello del Führer. In realtà, ad analizzare attentamente come si è evoluta in maniera molto complessa la politica di sterminio, le politiche di sterminio, userei il plurale, si vede chiaramente come ci fossero significativi margini di iniziativa dal basso. Non si può pensare che lo sterminio sia qualcosa che deriva dall'alto, da un ordine emanato da Hitler o da Himmler. In realtà c'è un'interazione con decisioni, con scelte, con comportamenti che vengono messi in atto dal basso a livello locale, e quindi la responsabilità di funzionari, Eichmann come di moltissimi altri civili e militari, è una responsabilità fondamentale. Hannah Arendt, dopo aver assistito al processo di Gerusalemme, scrisse una cosa che poi fece molto scalpore anche nel mondo ebraico, che Eichmann rappresentava la banalità del male. Che cosa significa? Secondo la lettura di Arendt, il grigio funzionario, che peraltro si presenta proprio in maniera molto esplicita nel corso del processo come tale, basta vedere le immagini dei documentari, dei film che sono stati girati allora, ad un profilo, diremmo noi oggi, estremamente basso. La filosofa ebrea tedesca coglie, diciamo così, questa pervasività del male in un mondo, quello del secondo dopoguerra, in cui si pensava che ci fosse questo diabolico Führer, questo diabolico Hitler o qualche altro diabolico suo compare che avesse, come dire, escogitato il massacro, il piano dello sterminio. La Arendt invece, prendendo l'esempio di Eichmann, ci dimostra come in realtà possano essere il male in fondo alberghi in ciascuno di noi, anche in un oscuro funzionario, in un ufficiale di basso rango, persino negli esponenti dei consigli ebraici nei ghetti dell'Europa orientale. Secondo Arendt c'era in qualche modo una componente di malvagità o di debolezza umana che faceva sì che queste persone agissero volendo, perseguendo il male altrui, perseguendo la morte degli altri. E ritorniamo alla questione delle responsabilità. Giusto? Sì, torniamo alla questione delle responsabilità. Cioè, era molto comodo scaricare su Hitler, peraltro morto, o su Himmler, anche lui morto, scaricare tutta la responsabilità storica, politica, culturale. In realtà il processo Eichmann mostra con chiarezza che questa responsabilità doveva essere diffusa, doveva essere distribuita con attenzione, cioè andando a cogliere con precisione, persona per persona, caso per caso, quali erano i margini di responsabilità. Gli studi hanno dimostrato che opporsi a ordini di sterminio non ha mai portato in nessun caso a un militare tedesco, a un funzionario tedesco, a una punizione o a danni per la sua carriera. Si poteva anche dire di no. Punto fondamentale è che invece la stragrande maggioranza di questi uomini nel meccanismo burocratico nazionalsocialista, anziché dire di no, ha detto di sì e ha volontariamente e volonterosamente partecipato allo sterminio. Professore Gustavo Corni, lei si è fatto promotore di un calendario digitale sulla Grande Guerra. Di che si tratta? È un calendario che si può trovare sul sito www.lagrandeguerra+100.it, che viene realizzato a cura del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento e che in 56 puntate mensili, dal maggio del 2014 al dicembre del 2018, cerca di raccontare nella sua articolazione, nella sua complessità, la Prima Guerra Mondiale. Ogni mese c'è un tema, c'è un argomento. L'ultima puntata uscita qualche settimana fa, ottobre 2014, riguardava i dibattiti in Italia tra interventisti e neutralisti. La prossima puntata, che uscirà la settimana prossima, quella di novembre, sarà dedicata ad una vicenda, una piccola vicenda bellica, il sacrificio di studenti tedeschi arruolati nella battaglia di Langemark nelle Fiandre, che è una vicenda militare di scarsa importanza, ma che assunse un valore quasi mitologico subito dopo, perché si voleva in questo modo esaltare il coraggio e l'entusiasmo di questi giovani che erano andati. Com'è nata quest'idea? L'idea è quella che è realizzata da un gruppo di giovani storici, grafici, web manager, eccetera, è quella di rendere leggibile attraverso il linguaggio digitale, quindi un linguaggio accessibile, la complessità della Grande Guerra. Ci sono centinaia di siti su questo argomento, ma la stragrande maggioranza di questi siti sono, come dire, casuali, nel senso che tu apri il sito e trovi tante cose diverse contemporaneamente. Invece il nostro sito segue la linea del tempo, come peraltro avviene nella storia. Quindi oggi, 5 novembre 1914, cosa succedeva? Esattamente, chissà, saranno successe sicuramente tantissime cose. Esattamente è difficile ricostruirlo. Sul fronte occidentale tutto era fermo, come scrisse Remarque, niente di nuovo sul fronte occidentale, perché il fronte occidentale era bloccato. Sul fronte orientale invece c'erano le grandi, c'era la grande offensiva russa che provocò quasi il disastro dell'esercito austro-ungarico, e di lì a qualche giorno, ai primi di novembre appunto del 14, ci sarebbe stato questo piccolo fatto d'arme a Langemark, su cui poi in Germania si sarebbe intessuto un mito che poi lo stesso Adolf Hitler rafforzò scrivendo nel Mein Kampf che lui stesso aveva preso parte alla battaglia, cosa non vera, e da quel momento, soprattutto dopo il 1933, naturalmente Langemark è divenuto un luogo mitologico quasi del pantheon degli eroi che hanno preceduto il nazionalsocialismo. Grazie professore Gustavo Corni. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.